di buon gusto di fare un passo indietro prima di andare in scena. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Macbeth dal 4 al 6 maggio a Roma, al Teatro Argentina. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Serra che ha curato testo, Grazie a regia, voi. scene, luci e costumi. Ci si vede a teatro, un in bocca al lupo. Crepi, a teatro allora, vi aspettiamo. Ciao Alessandro. Ciao, ciao.